9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci tornati in studio, Oscar Giannino torna a salutarvi, vi richiama i numeri per intervenire in diretta, 800 24 00 24 per le telefonate, gli sms al 349-238-6666, l'email a 9in.@radio24.it. Oggi parliamo di tasse e di evasione fiscale. Alcuni dati prima di presentarvi gli ospiti. Trovate sui giornali di oggi la radiografia dei contribuenti italiani relativo all'anno fiscale 2007, quindi la dichiarazione 2008. Alcuni dati: meno dell'1% del totale dei 41 milioni di posizione fiscale, stiamo parlando dei redditi delle persone fisiche, cioè l'IRPEF, l'ex IRPEF, meno dell'1% dichiara più di 100.000 euro, meno dello 0,2% addirittura dichiara più di 200.000 euro. Dei 41 milioni, più di 35 milioni sono entro i 30.000 euro di reddito annuo. Segnalo, e questo perché parleremo oggi molto di polemiche sull'evasione, che il reddito medio dei lavoratori autonomi, di solito additati come potenziali evasori, è cresciuto più di tutte le altre componenti. Siamo a un reddito medio dei lavoratori autonomi di 37.000 euro rispetto ai 19.000 euro circa dei lavoratori dipendenti. Resta il fatto che è una fotografia di una posizione fiscale del paese molto diversa da quella che vorrebbero i virtuosi, gli eticisti, quelli che da sempre dicono che il problema nel nostro paese è l'evasione fiscale di massa. L'Agenzia delle Entrate, lo ricordo, cifra in circa 200 miliardi di euro il valore aggiunto lordo evaso, almeno 200 miliardi di euro. Da alcuni anni ci interroghiamo su come fare diminuire questa percentuale. C'è chi dice che gli italiani siano atavicamente votati all'evasione. Io non lo credo affatto. Io credo che l'evasione sia figlia delle alte aliquote marginali. Ricordo che siamo il quarto paese OCSE per peso fiscale contributivo rispetto a tutti gli altri. La mia impressione è che più le aliquote sono alte, più l'evasione si estenda. Per combattere l'evasione abbiamo inventato alcuni strumenti nel nostro paese, gli studi di settore, sono oltre 200, sono quelli che gravano su professionisti e lavoratori autonomi. C'è una grande polemica perché non tengono conto delle cifre della crisi e più del 50% dei milioni di soggetti che sono sottoposti a questo strumento sintetico rischiano di non dichiararsi congrui. Che cosa fare di loro? Ne parleremo oggi. C'è anche lo scudo fiscale, di cui avete sentito nel giornale radio, sullo sfondo. Di tutto questo iniziamo a parlare con due ospiti. Il primo è Claudio Siciliotti. Buongiorno, dottor Siciliotti. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Il secondo è Leonardo Facco, che è un imprenditore e animatore di un movimento che si chiama Movimento Libertario, quindi una mosca bianca, un liberista molto spinto rispetto alle posizioni italiane. E oggi ne parliamo, l'abbiamo invitato perché ha appena scritto un libro, si chiama Elogio dell'evasore fiscale, pubblicato per Aliberti Editore. Comincerei proprio da lei, per dare un tono un po' diverso dal solito a questa trasmissione. La sua tesi qual è? Che in parole povere questo ordinamento italiano realizza una specie di concussione di massa nei confronti del contribuente cittadino, o mi sbaglio? Sì, corretto. La tesi è quella che sta riportata sotto la copertina del libro: le tasse sono un furto. E non pagarle quindi è legittima difesa. Lei si rende conto che si rende molto impopolare in questo momento? Ma assolutamente. Dottor Giannino, lei sa che non è la popolarità che cerco, non è il consenso che cerco, perché il movimento libertario è sì un movimento politico, ma no, che non si candida, non è interessato a posti o cose del genere. Noi ci occupiamo di cultura, io poi come editore da tempo lo faccio e quindi... tra l'altro non sono io che dico queste cose, ci sono fior fior di studiosi che da 200 anni a questa parte lo ricordano e ricordano appunto il fatto, tra l'altro anche i più tranquilli tra questi studiosi, cioè quelli meno rigorosi, dicono che comunque la tassazione è inversamente proporzionale all'autorevolezza di uno Stato, quindi più è alta la tassazione più lo Stato è assolutamente inefficiente, ed è quello che effettivamente sta accadendo in particolare in Italia. In Italia la situazione è tutt'altro che rosea, e forse per questo, e forse perché io sono nato da queste parti, ho scritto questo libro. Se io fossi nato magari in Svizzera o alle Canarie, senza ombra di dubbio non lo avrei scritto. Io le faccio solo un'altra domanda. Il problema non è forse di cultura politica. I paesi a cui appartengono gli autori che lei ricorda, quelli che sono anche a me cari, sono paesi soprattutto anglosassoni, sono paesi in cui l'evoluzione dei sistemi rappresentativi è nata dalla difesa dei diritti naturali dell'individuo nei confronti dello Stato, dell'assolutismo, del re, delle sue pretese fiscali. Tutte le grandi rivoluzioni liberali sono figlie di autodifesa fiscale. Noi siamo figli di una storia molto diversa. Uno Stato unitario lo abbiamo da poco più di 150 anni e non è stato uno Stato nato da una rivoluzione dal basso a difesa dei diritti individuali. La storia purtroppo conta. Giustissimo, è vero, sono assolutamente d'accordo. La storia conta, però la storia cambia nel tempo e è vero che sono per lo più autori, diciamo, anglosassoni, magari anche alcuni protestanti, ma c'è una scuola straordinaria contro di pensatori contro la tassazione. Tra l'altro di matrice cattolica, che è quella appunto che si rifà alla scolastica spagnola, in cui da Juan de Mariana a Pedro Fernández de Navarrete a, che ne so, Pedro de Navarra, dicono chiaramente che in caso di necessità il popolo non è in coscienza obbligato a pagare alcuna tassa. Facco, la devo interrompere perché la prego di rimanere con noi, lei farà il filo rosso di questa nostra trasmissione. Io le ricordo invece che nel nostro ordinamento la Corte Costituzionale, per consolidata giurisprudenza, come la Corte di Cassazione e la Suprema Corte, ha stabilito e confermato sempre nei decenni che, al di là dell'unico caso dell'arbitrarietà, il legislatore ha piena facoltà di individuare la capacità contributiva e tributaria del contribuente. Quindi mano libera allo Stato per soddisfare le sue esigenze, ed è così che sono nate imposte come l'IRAP, che non hanno eguali in nessun altro paese dell'Occidente. Dottor Siciliotti, entriamo subito un secondo nel merito. Io le chiedo di farci capire un secondo, visto che gli autonomi sono da sempre uno dei punti caldi della polemica quando si parla di evasione fiscale, se ci può un secondo guidare sullo stato dell'arte sull'aggiornamento degli studi di settore. C'era un termine il 30 settembre di quest'anno per la loro revisione, relativamente al 2008, 69 se non mi sbaglio di questi oltre 200 strumenti sintetici sono stati aggiornati si intende che non sono più modellini che circolano sui dati 2002-2004, ma sono stati aggiornati almeno al 2006, eppure molte associazioni di categoria, degli artigiani, dei commercianti, dicono che proprio questi aggiornati relativi al 2008, cioè l'anno in cui si manifestano i primi segni di crisi, porterebbero dei risultati ancora più pazzeschi, cioè ad imputare in un anno in cui si inizia a vedere il segno della crisi che morde, un aumento dell'imponibile della cifra d'affari esattamente contrastante a quello che avviene. È più o meno corretta questa fotografia, ma soprattutto questi strumenti sono ancora utili? Ma innanzitutto una premessa, perché l'imposizione fiscale non sia vista come un furto, come abbiamo appena ascoltato, e io devo dire la verità, non sono di questa opinione. Il sistema deve essere coerente, trasparente e semplice. Io vedo un sistema del futuro con tasse leggere e sanzioni pesanti, questo è il futuro. Un sistema fiscale leggero, semplice, coerente e trasparente, ma sanzioni estremamente pesanti per chi sgarra. Questo è quello a cui noi dobbiamo tendere. In questa direzione io non credo che gli studi di settore debbano assumere il peso che hanno assunto fino adesso, cioè semplicemente possono essere degli indicatori di una capacità reddituale, non possono essere delle determinanti di una capacità contributiva, perché sennò siamo veramente fuori strada. La stessa definizione di studi di settore sono delle medie, e le medie vuol dire che c'è qualcuno che sta su, qualcuno che sta sotto e qualcuno che forse si avvicina alla media, qualcuno quindi che è avvantaggiato, qualcuno che è penalizzato e qualcuno che rientra nello studio. Io penso che dobbiamo abbandonare questa valenza taumaturgica degli studi di settore e forse pensare di più al vecchio redditometro, che è la cosa più incisiva nella lotta all'evasione. Io la interrompo solo perché bisogna sempre pensare che la materia fiscale è complessa. Chi ci ascolta, se non appartiene a categorie di lavoro autonomo, magari non ha ben chiaro. Il redditometro è un indicatore sintetico della capacità del contribuente, nasce nel nostro ordinamento nel 1992 e indica alcuni segnali di questa capacità tributaria, che sono stati anche recentemente aggiornati in maniera un po' polemica, perché ci sono finite per esempio anche le spese per le scuole private dei figli. Sì, però in indubitabilmente il redditometro è uno strumento tarato sul singolo e tarato sulla, diciamo, la ricchezza spesa. Se uno la ricchezza la spende, evidentemente in qualche modo deve averla prodotta, e quindi se non è in grado di fornire sufficienti spiegazioni di come l'ha accumulata, forse siamo di fronte a un caso che tutti i cittadini sono in grado di giudicare, perché io non ho mai visto gente che si sottrae all'obbligo fiscale che non accompagni questo ad un'ostentazione della propria disponibilità economico-finanziaria. Case, barche, automobili di lusso, queste cose le vedono tutti, e se le dichiarazioni sono quelle che abbiamo appena ascoltato a fronte di una disponibilità di beni di questo tipo, forse una battaglia in quel versante è meritoria. E gli studi di settore viceversa sono medie, indicative che debbono rimanere tali, cioè dei segnalatori che indica una certa situazione. Poi lei mi ha chiesto qualcosa anche sugli autonomi, mi lasci dire che qui noi in questo è un paese dove la curva elevata dell'IRPEF la paga soltanto il lavoro, che sia esso dipendente o autonomo, perché esistono una serie purtroppo estesa di imposte sostitutive che sottraggono i patrimoni a una tassazione adeguatamente significativa. L'ultima proposta, la cedolare secca sugli affitti, abbiamo già le imposte sui capital gain. Qui si ha la sensazione che in questo paese in realtà gli unici che scontano la pesante progressività delle aliquote sono quelli che lavorano. Non è un buon segnale, e credo che anche questo andrebbe rimeditato. La posso proprio rinforzare in questa opinione. Noi abbiamo due articoli della Costituzione che si occupano dei tasse, il 23 e il 53. Uno di questi due fissa la progressività cosiddetta, cioè il fatto che le aliquote, anzi il sistema fiscale, dovrebbe gravare in proporzione naturalmente al reddito, mentre c'è per le persone fisiche, soprattutto sul lavoro. Se andiamo a vedere come funziona concretamente l'ordinamento italiano sulle persone giuridiche, cioè sulle imprese, l'effetto è che maggiore è il perimetro d'impresa, maggiore è la sua finanziarizzazione, più estesa la sua catena di controllo, minore è l'aliquota reale che si paga. Io dico sempre, Unicredit nel 2008, date di bilancio, Unicredit, la seconda banca italiana, ha pagato un tax rate reale dell'11%. Io come piccolo imprenditore e partita IVA pago il 53% del mio reddito lordo. Non so quanto sia giusto questo, e comunque mi sembra anche che violi la Costituzione. Alcuni ascoltatori, Federico da Alessandria. Prego Federico. Buongiorno. Io quando sento parlare di evasione fiscale come autodifesa, sinceramente mi inquieto un po'. Sarà per la mia formazione protestante, come ho sentito dire, essendo valdese dalla nascita. Vi chiedo allora di dirmi sinceramente che differenza ci sarebbe fra un evasore fiscale, io gli studi di settore li abolirei perché le tasse vanno pagate e basta, se poi sono tante diminuiamole, va benissimo, rendiamole più semplici, ma bisogna pagare quello che, su quello per cui si guadagna. Ma la mia domanda è, mi spiegate allora che differenza ci sarebbe fra un evasore fiscale che vale per autodifesa, un lavoratore dipendente che a fine mese non ce la fa più a fare quelle famose spese proletarie degli anni 70. Aspetto la vostra risposta, vi saluto e faccio i complimenti per la trasmissione. Buongiorno. Grazie Federico, pregheremo poi Facco di darle una risposta, e poi Doriano da Pistoia. Prego Doriano. Sì, buongiorno. Io innanzitutto vorrei dire questo, che quel signore che rappresenta, diciamo, che non pagare tasse è un'autodifesa, io lo incriminerei per istigazione al furto. Io sono stato artigiano per 35 anni per conto terzi, ciò vuol dire che le tasse, volere o no, le pagavo tutte come i dipendenti. Ora sono un commerciante, sono in pensione, però sono un commerciante, attività. E veramente mi meraviglio di tanti cittadini che mi fanno no, ma lo scontrino no, io lo faccio a tutti, sia ben chiaro. Ecco, per me le leggi vanno rispettate, e poi dico questo, allora apriamo per tutti, anche per i dipendenti, il libero arbitrio, cioè invece di pigliare la fonte, ecco, allora mi potrebbe essere un discorso al limite, dico io, accettabile. Per me sono dei ladri, e innanzitutto chi non paga le tasse, come agli artigiani fra virgolette, e facevano concorrenza a me e a tanti artigiani onesti, o per amore o per forza eravamo onesti, e ora sono onesto come commerciante, e disprezzo con tutto il mio cuore tutti quegli evasori fiscali. Non gli auguro male perché sono un cristiano, però si rimedierebbe anche la delinquenza, o perlomeno in parte, perché se uno va a rubare e poi non può dimostrare da dove vengono questi soldi, forse si combatterebbe anche la delinquenza. Tutto il mio disprezzo per gli evasori fiscali. Grazie Doriano. Qui il problema non si tratta di difendere gli evasori, si tratta di dire che l'evasione, l'elusione, diventa più ampia quanto più alte sono le aliquote. Questa è, noi non stiamo difendendo chi viola la legge italiana. Il problema è rendersi conto che siamo in un ordinamento che si è autoattribuito poteri tanto vasti quanto in nessun altro quasi paese del mondo. Capisco che è un discorso culturalmente un po' complicato. Gian Piero, perdoni, dalla Spezia. Sì, io la mia testimonianza è relativa al fatto che io sono stato prima un impiegato statale. Quando ero un impiegato statale disprezzavo anch'io diciamo gli evasori fiscali, dicevo ma com'è possibile, io pago tutte le tasse eccetera. Poi un giorno ho dovuto chiamare un artigiano a casa mia per riparare una tapparella, ho visto che aveva tutte le dita di una mano amputate, ho visto che la ferita era piuttosto fresca, gli ho chiesto cosa era successo, lui mi ha detto purtroppo che quando stava lavorando a costruire delle persiane gli era sfuggita la mano e si era amputato tutte le dita. Gli ho chiesto quando era successo, mi fa è successo un mese fa, anzi 3 settimane fa, e faccio ma come, lei è di nuovo dopo 3 settimane una ferita così grave di nuovo al lavoro? E lui ha detto caro signore, io sono un artigiano, se non lavoro non mangio. Se un impiegato statale perde le dita in un incidente anche non di lavoro, a me è successo di rompermi un piede, io sono stato a casa per 2 mesi per una frattura composta di un piede, successa per motivi di lavoro ma comunque non ha importanza. Quello già mi aprì gli occhi, più successivamente ho lasciato l'impiego statale senza nemmeno arrivare al minimo della pensione perché volevo lavorare in proprio, ho messo su una società è andata bene, è cresciuta, è una società di consulenza ad alto livello ingegneristico e di conseguenza lavoro solo con società primarie, impiego molto personale e fatturo tutto, quindi non ho nessuna possibilità di evasione perché ovviamente gli impiegati ce l'ho da molto tempo, devono essere molto specializzati, quindi non ho impieghi co-co-co. Però insomma il bilancio finale da diventare lavoratore dipendente a mettersi in proprio con un'esperienza di successo come la sua è che tutto sommato ci si tocca in maniera diversa il peso delle tasse. Guardi, io posso dire una cosa, che se fossi rimasto a lavorare da impiegato statale avrei guadagnato sicuramente di meno ma avrei vissuto di più, perché io lavoro mediamente 12 ore al giorno, sono arrivato a 14, 7 giorni alla settimana nel periodo dei primi 3-4 anni di partenza della società. Comunque il peso fiscale, il carico fiscale è semplicemente allucinante. Io pago una carrettata di tasse superiore al 66% perché l'IRAP mi pesa per quasi un 20%. La ringrazio della testimonianza e giro per un commento finale di questa prima parte al dottor Siciliotti. Dottor Siciliotti, questo ordinamento che divide gli italiani in due, il reddito dipendente, quindi ritenuta alla fonte, e invece autonomi, professionisti, commercianti, siamo il paese con la più vasta componente di lavoro autonomo in tutto il mondo avanzato, non è un sistema fiscale che devi spaccare così, proprio perché c'è una componente così elevata di lavoro autonomo, si attaglia un po' poco e male alla realtà produttiva italiana? Ma sicuramente, io credo che vada spezzato questo, mi perdoni, gioco di parole, equilibrio degli squilibri, cioè nella testa delle persone tu fai un lavoro dipendente, puoi pensare di lavorare un po', di pagherai le tasse fino all'ultimo euro, però potrai lavorare di meno, avrai una protezione sociale, se ti rompi il piede come abbiamo appena sentito starai a casa il doppio del tempo necessario per rimetterlo a posto, perché questo è il tuo status. Dall'altra parte l'autonomo il quale anche se si rompe il piede va a lavorare il giorno dopo col piede rotto, però in qualche modo ha la possibilità di avere un fisco più leggero non avendo le ritenute alla fonte. Questo equilibrio degli squilibri lo dobbiamo spezzare, qui le tasse le devono pagare tutti, autonomi e dipendenti, e il lavoro deve essere una delle componenti, come dice la nostra Costituzione, su cui fondiamo questa ripresa di cui tutti esprimiamo auspici, però deve ripartire da un lavoro, da un impegno e dalla fine anche, mi consenta, da questo equilibrio degli squilibri che le ho appena descritto. Grazie dottor Siciliotti. Eccoci tornati in studio, stiamo parlando di fisco, di evasione fiscale, di distribuzione più equa del carico tributario e contributivo nel nostro paese. Gli sms, come immaginavo, arrivano a fiotti, ne leggo solo alcuni. Ma se è così terribile essere lavoratori autonomi, perché ce ne sono così tanti, dice Gloria. ci sarebbe da riflettere su questo. I lavoratori autonomi si sono visti come un'eccezione quando ne abbiamo la più alta componente, significa evidentemente che ci dà poca soddisfazione al lavoro dipendente. Infatti il lavoro dipendente ha delle retribuzioni molto compresse anche dagli attuali sistemi contrattuali, questa è la mia risposta. Poi i dipendenti fanno secondi e terzi lavori in nero, sono anche loro evasori, dice Enrico da Modena, e questo è un altro tema di cui di solito ci si occupa poco, e così via, ce ne sono tantissimi. Ma al di là di questo, io passo a presentarvi i nostri ospiti in questa seconda parte. Abbiamo con noi Giuseppe Bortolussi, segretario della CGIL di Mestre. Buongiorno Bortolussi. Buongiorno a voi. E Marco Accornero, che è il segretario generale dell'Unione Artigiani della provincia di Milano. Buongiorno Accornero. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Ecco, io partirei da lei perché lei è stato tra coloro che in queste settimane con più energia, più volte sul Corriere della Sera per esempio, ha sollevato un tema che riguarda proprio i lavoratori autonomi e gli artigiani, cioè i soggetti agli oltre 200 studi di settore, denunciando il fatto che malgrado i promessi adeguamenti degli studi di settore, cioè di questi strumenti analitici con indicatori presuntivi di cifra d'affare, quindi di imponibile e quindi di cifra d'imposta dovuta allo Stato, la promessa era quello di adeguarli agli andamenti successivi anno per anno dell'economia e di adeguarli anche poi alle cifre della crisi. Lei dice, malgrado tutto questo, invece gli studi quest'anno rischiano di portare a un numero di non congrui molto più elevato e la gente non si allineerà. È così? Perché? Esattamente, noi abbiamo rilevato come a parità di indicatori nel 2008, ovviamente ci stiamo riferendo ai redditi dell'anno 2008 rispetto al 2007, gli studi di settori, peraltro approvati nel corso dell'anno, non nel corso dell'anno di riferimento ma a 2009 inoltrato, portano, quindi con effetto diciamo così retroattivo, portano la necessità di un maggior adeguamento da parte delle imprese che stimiamo tra il 15 e il 18% a seconda dei casi. Particolarmente colpiti sono idraulici, elettricisti, acconciatori ed estetiste. I correttivi della crisi che venivano indicati come palliativi rispetto a una crisi che si è già manifestata peraltro negli ultimi mesi del 2008 vigono solo nel caso in cui l'impresa dichiari minori ricavi rispetto al 2007, ma se a parità di ricavi, a parità di spese, gli studi di settore presumono un reddito maggiore. E ciò che è ancora più grave è che a dispetto di ciò che viene spesso enunciato, gli studi di settore si trasformano spessissimo in un mezzo di accertamento e non solo in un indicatore di reddito da supportare poi con altre prove da parte degli uffici fiscali. Bortolussi, in questa realtà fatta di piccola, piccolissima impresa e molto lavoro autonomo, se gli dovessi chiedere la svolta vera verso un sistema fiscale che tenga conto di questa realtà produttiva italiana, invece che di contrastarla, lei cosa direbbe? Mi permette però un solo appunto al suo telespettatore che diceva come mai ci sono tanti lavoratori autonomi. Esatto. Guardi, si può anche rovesciare la cosa. Se c'è tanta crisi del lavoro dipendente e se fare il lavoratore autonomo è così conveniente e si può anche evadere e si guadagna molto, perché altri lavoratori dipendenti non si mettono a fare i lavoratori autonomi? Punto di domanda. Però detto questo, che però anche questo è da riflettere, no? Se è così facile, così bello. E il discorso è questo, gli studi di settore, vede, il problema è che la coda ai lavoratori autonomi l'ha pestata il ministro Visco, è lui che ha tentato di introdurre gli indicatori di normalità economica che aumentavano di un 20% circa i ricavi. C'è stata una grossa battaglia fatta proprio dalla CGIA di Mestre in prima persona, è stata vinta, non sono stati introdotti, tra l'altro senza sentire le categorie, ma il giro di vite l'ha dato Visco. Ora questo governo in carica da più di un anno, da poco più di un anno, deve rimediare. Che cosa ha fatto? Ha introdotto degli correttivi anticrisi per tutti, se hai dei ricavi che nel 2008 sono inferiori a quelli del 2007, più ci sono dei correttivi per 26 studi per 26 categorie e ne hanno rivisti 69, i cosiddetti studi di settore evoluti. Ciò nonostante non sono riusciti a modificare sostanzialmente le cose e ci sono delle categorie che sono veramente penalizzate, questo è da dire, ma bisogna vedere se la colpa è adesso del veterinario che tenta di aggiustare la coda oppure la colpa è di chi l'ha pestata. In ogni caso non ci siamo, però c'è una clausola, oltre la revisione dei 69, oltre i correttivi anticrisi per tutti, che ripeto non sono sufficienti, il governo si è impegnato a rivedere Gerico. Una volta che avrà le dichiarazioni di tutti questi che sono, di queste aziende che sono sottoposte agli studi di settore, rivedrà ulteriormente, in più rivedrà ulteriormente a ribasso eventualmente i ricavi per la dichiarazione di congruità, cioè l'asticella verrà magari abbassata. C'è anche da dire una cosa che io ritengo molto più importante per la civiltà giuridica di questo paese, specie in materia fiscale. C'è una circolare dell'Ufficio delle Entrate, dell'Agenzia delle Entrate, che dice una cosa, e qui bisognerà vedere se poi tengono fede a quello che promettono, se sarà inverata dai fatti, dalle agenzie locali. Dice che se uno non è congruo in questa realtà, perché sanno che non sono riusciti ad adeguare gli studi di settore alla realtà, alla crisi economica, se uno non è congruo non si deve adeguare automaticamente, e questo è già un fatto importante. Se poi verrà chiamato, mi spiego, c'è questo discorso di tener conto del fatto che la prova contraria la devono dare gli uffici e comunque ci sarà una dialettica, hanno scritto, l'hanno messo per iscritto, in cui terranno conto della crisi. Poi c'è questo discorso della possibilità di dare prova contraria, che prima era una cosa praticamente impossibile. Ora, detto tutto questo, non siamo al punto di aver cambiato gli studi di settore, averli resi uno strumento adeguato a quella che è la realtà della microimpresa italiana, piccola e micro, che garantisce l'80% dei nuovi posti di lavoro ogni anno. Non è così, ci sono anche problemi col credito, ci sono mille altri problemi. Però direi che la coda l'ha pestata il governo Visco, che l'ha pestata il ministro Visco, e questo ministro non è stato capace ancora di rimetterla a posto. Ci vorrà del tempo, però tutti i presupposti mi pare vadano in senso positivo, ancorché non ci sia ancora riuscito. Io a conferma di quello che dice Bortolussi, ricordo che nel nostro ordinamento, richiamate in vita da Visco, ma erano norme precedenti, esistono alcune norme, a mio diritto molto discutibili, del tipo: per il lavoratore autonomo e il professionista un prelievo dal proprio conto corrente, un prelievo può essere addotto dall'Agenzia delle Entrate, dalla Guardia di Finanza, in sede addirittura di precontenzioso come elemento presuntivo, è parificato a un compenso non dichiarato. Voi capite? Un prelievo dal conto è come un compenso nel nostro ordinamento. Proprio una questione di civiltà giuridica, queste sono norme, mi scusi, un po' sovietiche. Le può sembrare un po' strano che usi questi termini, guardi, io sono anche assessore a un comune e su una giunta di centrosinistra, comune di Venezia, quindi non sono un uomo di destra, ma parlando di questi studi di settore, avendoli seguiti ancora da lontano 98 quando sono stati introdotti, avendo visto l'evoluzione, devo dire che i tentativi di utilizzarli come uno strumento per ricavare ulteriore reddito dal lavoro autonomo è stato fatto soprattutto dal ministro Visco. Ora, ripeto, non è che questo governo stia facendo molto meglio, non è che sia riuscito a fare quello che doveva, ma certamente ha un acchito, un modo di rapportarsi perlomeno diverso. Altre mail, ne cito alcune. In base agli studi di settore ho pagato 8.000 euro in più nonostante vendendolo in grosso fatturi tutti. Cosa volete che possa pensare io di questo sistema delle tasse? Questo è Salda Bergamo. Vorrei ricordare, questo invece è Daniele, che un'autonoma parità di contributi pagati a una pensione inferiore, di molto inferiore a un lavoro dipendente. Perché è giusto secondo voi? Facco, si difenda in breve da chi, moltissime mail, guardi, le dico veramente moltissime, la accusano con termini durissimi di essere praticamente un inneggiatore alla violazione sistemica delle leggi. Mi dia un attimo di tempo, visto che sono state diverse le persone che sono intervenute. Dunque, innanzitutto, per quello che riguarda l'intervento del Valdese, c'è una grossa differenza fra il tenersi il frutto del proprio lavoro, che a me non risulta essere criminale, e l'aggredire qualcun altro per fare la spesa proletaria. La libertà non implica assolutamente l'aggressione. Ad Oriano, e qui entriamo nella questione della legge, io a quelli come lui ricorderei che però dovrebbero andare anche, o dovevano andare anche, a Roma a difendere Priebke, perché Priebke è uno che ha fatto e massacrato persone proprio perché lo prevedeva la legge. E per fortuna invece noi oggi esaltiamo persone che hanno disubbidito la legge e altrimenti avrebbero aiutato i dittatori vari, in questo caso parliamo di Hitler, a mettere gli ebrei nei forni. Quindi c'è una grossa differenza fra legge e legislazione, attenzione. Ed è proprio a questo punto, ad esempio, che io noto in questa discussione che, come sempre accade, Battià aveva ragione, lo Stato mette tutti contro tutti, autonomi contro dipendenti, dipendenti del privato contro il pubblico e via discorrendo. Frédéric Bastiat, allora, lo ricordo a chi ci ascolta, un grandissimo del pensiero liberale, del pensiero individualista contro le eccessive pretese dello Stato. Eccoci qui, torniamo immediatamente con voce di alcuni ascoltatori. Franca da Roma innanzitutto, prego Franca, ci dica. Buongiorno, mi scusi la domanda banale per di una semplice casalinga, però io mi chiedo ogni volta che chiamo un idraulico, che chiamo un imbianchino, che chiamo un tappezziere e così via, quando mi dicono: signora, ma lei ha bisogno della fattura, perché ci sono 200 euro in più, 300 euro in più, lei non ci fa niente, io invece le faccio lo sconto. Forse è tutto lì il meccanismo perverso, mi scusi, se io potessi scaricarmi anche qualche cosa, forse io mi farei fare, come tutti, la fattura. Invece la fattura è un bellissimo quadretto a cui attacchiamo in sala da pranzo. Mi scusi, è la domanda banale, ma a me gli studi di settore mi fanno venire solo tanta rabbia. Grazie. Grazie Franca, le risponderò. Massimo da Milano, prego Massimo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io... Io molto, sono un lavoratore dipendente e sostanzialmente 5-6 anni fa, quando ero della generazione 1000 euro, guardavo indignato a tutti i lavoratori autonomi, a questi imprenditori che evadevano, cattivi, che gli piaceva esagerare perché la ricchezza non basta mai. Oggi fortunatamente guadagno qualche soldino in più e quando mi ritrovo un premio lavorato tassato al 50%, mi domando e chiedo: possibile mai che in questo paese non appena si percepisce qualcosina in più venga trattenuto quasi per intero o veramente in maniera massiccia? Allora io non voglio giustificare nessuno, perché non si può giustificare, però non posso biasimare quelli dall'altra parte. Prima parlavate che questo Stato, lo Stato tende a dividerci per classi, a farci lottare tutti contro tutti. Secondo me è l'argomento veramente più interessante della vicenda. Grazie, grazie Massimo. Le dirò che la mia opinione è che se levassimo il sostituto d'imposta e i lavoratori dipendenti dovessero prima prendere l'intero lordo e poi due volte l'anno, una volta fare l'anticipo e poi conguaglio di quello che lo Stato gli chiede davvero sul totale della loro retribuzione ai lavoratori dipendenti, io penso che avremmo unificato il paese, perché i lavoratori dipendenti renderebbero piene le piazze nella protesta contro l'eccessiva pretesa dello Stato. Detto questo, dobbiamo una risposta a Cornero, all'ascoltatrice che dice: perché non istituzionalizziamo il contrasto di interesse per cui per ogni fattura io posso scaricare? Io ricordo che il principio dell'ordinamento è che si possono scaricare le spese che contribuiscono a creare valore aggiunto o, con regime di deduzione in quel caso, spese che sono considerate fondamentali, per esempio per l'accrescimento del capitale umano o per sostenere i costi sanitari e previdenziali del proprio nucleo familiare. In questo caso noi non rientriamo in nessuno di questi casi. A Cornero però, lei che dice? Da parte nostra non siamo contrari alla istituzione di meccanismi di conflitto di interesse, ad esempio siamo stati favorevoli alle deduzioni fiscali in tema di ristrutturazioni fiscali, così come siamo stati favorevoli e lo saremo alle varie cosiddette Tremonti, che consentono il rivestimento degli studi degli utili reinvestiti. Anche questo determina una sorta di contrasto di interesse, comunque un maggior controllo fra le aziende. Però quello che per cui non bisogna commettere l'errore e confondere gli studi di settore con l'evasione fiscale. È da qui che nasce l'errore. Lo studio di settore è un'aberrazione giuridica, correttamente è stata evidenziata dal collega Bortolussi, introdotta da Visco, che presume un reddito, quindi presume fra virgolette un reato senza che questo sia accompagnato da vere prove concrete caso per caso, come richiede una sana civiltà giuridica, come correttamente diceva Bortolussi. Quindi noi contestiamo il sistema di presumere un reddito a fronte degli indicatori di carattere generico. La circolare ricordata da Bortolussi esiste, purtroppo nella realtà pratica fino adesso registriamo che le agenzie territoriali si limitano a applicare pedissequamente ciò che risulta dallo studio di settore. Il contribuente può ricorrere alle commissioni tributarie, è anche vero che spessissimo le commissioni tributarie danno ragione al contribuente, ma questo significa costi e comunque un calvario giuridico da parte del contribuente. Riteniamo che si debba ritornare veramente che lo studio di settore sia solo un mero indicatore. Una batteria di SMS che naturalmente solleva uno dei temi classici su questi argomenti. Come mai allora nei paesi scandinavi ci sono elevate pressioni fiscali ma non vi sono proteste? E alcuni ascoltatori mandano SMS già in risposta, come se vedessero l'intero flusso, dicendo perché a fronte delle alte richieste lo Stato dà servizi molto più efficienti nei paesi scandinavi. Bortolussi, la domanda è: come mai però la piccola impresa italiana, così diffusa nelle sue associazioni e organizzazioni di rappresentanza nei decenni, insomma man mano che l'ordinamento diventava un ordinamento per cui appunto Unicredit paga l'11% e il piccolo paga 50-60%, non ha fatto sentire di più la sua voce? Ma perché vede, i piccoli sono brutti e sporchi e cattivi, e essendo brutti e sporchi e cattivi hanno bisogno di bravi avvocati. Il discorso è questo: non sono colpevoli, sono quelli che garantiscono il tessuto connettivo della nostra realtà economica, sono quelli che pagano anche il 50% di tasse, e con gli studi di settore non sfuggono. La signora che prima reclamava perché non gli fanno la fattura, sappia che la prima che evade è lei, perché intanto evade l'IVA per il 20% e la fattura la deve richiedere ed esigere, e se non gliela fanno deve pretenderla. E il lavoratore autonomo, anche a volte ignorantemente, insisto su questo, chiede se vuole la fattura, invece la deve fare, perché tanto lui ha gli studi di settore e difficilmente, mi spiego, quella fattura non fatta lo agevola, lo espone solo a rischi. Allora vede, questo è un paese strano dove prevale anche un certo modo di vedere le cose, ma la piccola impresa, se fosse veramente valorizzata, valorizzata con il fisco, valorizzata con il credito, sarebbe veramente la nostra possibilità di uscire velocemente dalla crisi, ma di creare occupazione sana ed evoluzione anche per la nostra economia. Non è vero che solo le grandi aziende danno lavoro e futuro, le prove dicono il contrario anche in questa crisi. Noi usciremo prima di altri paesi grazie al nostro tessuto di piccole imprese. E la storia dell'evasione fiscale, che era vera fino a un certo punto della storia del nostro paese, non lo è più così tanto, perché ci sono gli studi di settore che hanno fatto emergere reddito, che obbligano a pagare, a volte anche quando tu non hai guadagnato quei soldi. Se poi ci mettiamo i tempi di pagamento della pubblica amministrazione, il credito erogato alle grandi e non alle piccole che ne hanno bisogno come ossigeno per sopravvivere in questa fase difficile, beh, forse in questo paese bisogna cambiare qualcosa, anche nel discorso fiscale. Perché vede, quando si dice che evadono questi, scusi, prende solo in considerazione un fatto: le grandi società di capitale non solo pagano poco quando pagano, ma il 50% negli ultimi 5-6 anni non ha dichiarato una lira al fisco, zero lire, il 50%. Quindi invece di fare tanta prosopopea sulle piccole che già hanno gli studi di settore per cui pagano quello che gli chiede lo Stato, il principe stabilisce quanto devono pagare, giusto o sbagliato che sia, quello pagano, e quando pagano quello che gli ha chiesto il principe sono sul giusto. Il problema è che il 50% delle società di capitale che non sono sottoposte a studi di settore, queste non pagano una lira di tasse, no l'11% di Unicredit, no il 4-5% di altre. Ma nemmeno un euro. Lei ha perfettamente ragione. A me tocca ringraziare a questo punto gli ascoltatori che non riusciamo a mandare in onda, quindi Alfredo da Milano, Luca da Firenze, Simone da Monza. Facco, negli ultimi 20 secondi, nella sua posizione di minoranza, con tutte queste accuse che raccoglie, io in realtà la condivido la sua posizione, come lei sa, ci aspetta una dura battaglia culturale, continueremo? Solo una cosa Giannino, visto che tutti parlano ma noi facciamo i fatti, il Movimento Libertario sta facendo la battaglia sul sostituto d'imposta con Giorgio Fidenato, che è un imprenditore che ha 5 dipendenti e gli dà da gennaio scorso tutti i soldi in busta paga. Questa è una cosa importante, io sento tanti ciarlatani in circolazione che dicono bisognerebbe il governo, la cosa, ma non si fa niente. Noi questa cosa la stiamo facendo concretamente, autodenunciandoci all'Agenzia delle Entrate, all'INPS, al Ministero del Tesoro, ecco, seguitela, venite a difendere questa battaglia che è una battaglia di civiltà, e poi anche i lavoratori dipendenti si accorgeranno che non guadagnano 1200 euro ma 2500-2400 euro e chi glieli porta via? L'aggressore, che si chiama Stato. Sono completamente d'accordo, bisogna in questo caso avere il coraggio di violazioni dal basso autodichiarate in maniera gandhiana per tentare di diventare dei casi su cui si discute e sui casi su cui far cambiare la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che è tutta solo favorevole allo Stato. Ne abbiamo parlato in maniera un po' diversa dal solito di evasione fiscale oggi, e questa è un po' la versione di Oscar, appunto. Io ringrazio in regia Paolo Corleone e Carmelo Lauricella, in redazione Gloria Guerrera e Laura Faggin, la linea al Generale Radio, appuntamento a domani.